Europa 24. La Commissione europea ha proposto di stanziare un altro miliardo di aiuti in prestiti a medio termine per l'assistenza finanziaria all'Ucraina. Intanto la Russia accusa i colleghi europei di Van Rompuy di non avergli consentito di andare oggi a Mosca. Ora è apparsa una nuova lista di sanzioni che vieta di andare in Russia, ironizza il ministro degli esteri. E come numero uno di questa lista, per ironia della sorte, figura il presidente del Consiglio europeo. Sulla Crimea, l'Europa deve procedere con fermezza, ma non deve chiudere mai la porta del dialogo con la Russia, dice il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani al microfono di Dario Ricci. L'Europa è diversa dagli Stati Uniti, certamente noi ci battiamo per difendere la legalità, per difendere il diritto internazionale, per difendere l'integrità dell'Ucraina. Non siamo d'accordo con ciò che ha fatto la Russia, detto questo però non dobbiamo chiudere le porte del dialogo, non dobbiamo permettere che la diplomazia esca dalla scena, anzi dobbiamo fare in modo che possa essere trovata una soluzione, perché poi la verità ha sempre molte facce. La Russia ha sbagliato, ma la Crimea è una realtà dove c'è una maggioranza russofona e ciò che è accaduto è anche frutto degli errori commessi dall'imperialismo sovietico, che decideva di spostare i popoli da una parte e dall'altra. Paura di un ricatto energetico da parte di Mosca? Beh, un innalzamento del livello della tensione certamente non agevolerà il rapporto con Mosca. Riunione decisiva oggi Parlamento europeo, Consiglio, Commissione sulle regole del fondo di risoluzione bancaria. Sentiamo. Torneranno a riunirsi oggi i delegati del Parlamento e del Consiglio nel tentativo di trovare finalmente un accordo sul meccanismo unico di gestione delle crisi creditizie, tassello cruciale della nascente unione bancaria. I nodi sul tappeto sono ancora molti, mentre il Parlamento vorrebbe un assetto il più federale possibile, il Consiglio è tentato dalla via confederale. Le parti devono decidere il meccanismo decisionale, i tempi della mutualizzazione e della capitalizzazione del fondo di risoluzione, il ruolo dei governi nel decidere il futuro di una banca in crisi. La scelta di mettere in comune risorse nazionali per salvare un istituto di credito non è un aspetto banale nel processo di integrazione europea. I tempi per trovare un accordo sono stretti. L'obiettivo è di consentire al meccanismo unico di gestione delle crisi creditizie di vedere la luce in autunno. L'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo, che dovrà approvare la riforma, è prevista a metà aprile, prima dello scioglimento dell'Assemblea in vista del voto europeo di maggio. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Una multa da quasi un miliardo di euro per un cartello sui prezzi dei cuscinetti che ha visto coinvolte 6 aziende, 2 europee e 4 giapponesi. È quanto ha deciso l'antitrust europeo. Le due aziende europee sono la svedese SKF e la tedesca Schaeffler. Primo via libera al pacchetto telecomunicazioni da parte dell'Europarlamento, che anticipa la fine dei costi del roaming al 15 dicembre 2015 da luglio 2016. Scontro invece sulla neutralità di Internet, che secondo gli eurodeputati socialisti va ulteriormente rafforzata garantendola per tutti i servizi d'accesso al web. L'obiettivo è arrivare ad un accordo con gli Stati membri entro la fine del 2014 sotto la presidenza italiana dell'Unione Europea. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.